Componimento 38° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Orso e non furon mai fiumi né stagni, né mare ov'ogni rivo si disgombra, né di muro o di poggio o di ramo ombra, né nebbia che l ciel copra e l mondo bagni, né altro impedimento ond'io mi lagni, qualunque più l'umana vista ingombra, quanto d'un vel che due begli occhi adombra, e par che dica or ti consuma e piagni. E quell'or inchinar ch'ogni mia gioia spegne o per humiltate o per argoglio, cagion sarà che nanzi tempo i moia. Ed una bianca mano anco mi doglio, che è stata sempre accorta a farmi noia, e contra gli occhi miei s'è fatta scoglio. Fine del componimento.